GR24, il sole 24 ore. L'ipotesi di elezioni anticipate, Scajola, non ne vedo l'aria. Oggi il voto di fiducia sulla privatizzazione dell'acqua. Cosentino, ascoltato dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera, contro di me solo calunnie. Fiat proteste a Termini Imerese, Arese verso la chiusura. FAO nel pomeriggio di UF chiude il vertice. Buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. In primo piano dunque la politica e l'avvertimento di ieri del presidente Schifani. Maggioranza in fermento, opposizione in piena litigiosità. Il quadro della situazione in diretta con Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì, i contrasti nella maggioranza si intrecciano con la fiducia sul decreto per la privatizzazione dell'acqua nel pomeriggio a Montecitorio. Una mattinata convulsa questa dopo le parole del presidente del Senato Renato Schifani, che invoca elezioni anticipate qualora la maggioranza non riuscisse a trovare l'accordo sulle riforme, ma soprattutto sul processo breve. Questa mattina interviene il capogruppo PDL alla Camera Fabrizio Cicchitto, che attenua le parole di Schifani: sono ottimista perché voglio escludere le elezioni, il nostro elettorato ci richiede una soluzione positiva, ma Cicchitto avverte il fronte finiano, nessun ripensamento sul processo breve, tutto ciò nel giorno in cui il premier Silvio Berlusconi riceve a Palazzo Grazioli il ministro della giustizia Angelino Alfano. Anche per il ministro Scajola non c'è aria di elezioni. Da parte di Enne interviene il sindaco di Roma Gianni Alemanno, che si propone come mediatore tra Fini e Berlusconi. Difficoltà anche però per il decreto sulla privatizzazione dell'acqua, mal visto dalla Lega, ed è proprio il Carroccio che questa mattina dà corpo all'ipotesi di elezioni anticipate. Se la maggioranza è divisa è giusto ricorrere alle urne, dice il ministro degli interni Roberto Maroni. Nell'opposizione invece fuoco incrociato sul Partito Democratico. Da parte dell'Italia dei Valori e dell'UDC Di Pietro insiste sulla partecipazione al No Cap Day, Casini chiede il lodo Alfano costituzionale, Bersani risponde il PD non sta in mezzo, fa la sua strada e ha la sua idea. Insomma, la situazione è molto molto confusa e per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta per questo quadro della situazione. Il sondaggio di oggi era proprio dedicato alle manifestazioni del 5 dicembre, le manifestazioni concomitanti. Sentiamo. Voi fate il No Berlusconi Day e noi lo stesso giorno, nella stessa città, ribattiamo con un Sì Berlusconi Day. Il prossimo 5 dicembre Roma rischia l'affollamento delle piazze, oltre al solito doppio stillicidio della conta dei partecipanti. Il No B Day per chiedere le dimissioni del premier è nato dalla rete. Alcuni blogger hanno buttato lì l'idea e le adesioni sono già 300.000. Ecco allora muoversi i circoli della libertà con la contromanifestazione, il CB Day. Ma voi dove andreste? Alla manifestazione pro o a quella contro il Presidente del Consiglio? Nel nostro sondaggio ha vinto il No B Day. Il 68% di voi andrebbe lì. Il 17% invece opta per il CB Day e il 14% che rimane a casa o a sciare. Insomma, ovunque, ma non in piazza. Bianco o Nero torna domattina alle 8.30 e per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, il sole 24 ore. E sullo sfondo c'è sempre il caso Cosentino, oggi ascoltato dalla Commissione Giunta per le autorizzazioni della Camera. Ci racconta tutto in diretta Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Contro di me non un fumus persecutionis, ma un fumone di persecuzione. Nicola Cosentino Battagliero, quello che esce dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera, dove è stato sentito questa mattina per oltre due ore. Io rimango al mio posto, sul mio destino può decidere solo Berlusconi, aggiunge il sottosegretario, che dice di non temere l'arresto in caso di elezione a presidente della regione Campania. Sentiamolo. Io ho cercato di spiegare che ciò che oggi dice il GIP non è Vangelo, ma il suo provvedimento è oggetto di riesame da parte del Tribunale del Riesame, da parte della Cassazione, quindi ci sono diversi momenti di valutazione che io mi appresto con i miei legali a chiedere e sono certo e convinto che questa ordinanza sarà cassata. Ma su questa vicenda Calenda, restano forti le tensioni nella maggioranza. Il deputato del PDL finiano Fabio Granata dice di non escludere un voto a favore della mozione di sfiducia al sottosegretario, anzi gli chiede di fare un passo indietro. Ipotesi contemplata ieri anche da un altro finiano, il vice capogruppo PDL alla Camera, Italo Bocchino. Ricordiamo che per ora sono due le mozioni di sfiducia, una dell'Italia dei Valori e l'altra del Partito Democratico. Quanto alla giunta per le autorizzazioni, il dibattito sulla richiesta di arresto che era stato inoltrato dalla magistratura napoletana continuerà mercoledì prossimo, probabile in quella sede anche la votazione. Da Montecitorio per ora è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. E sul fronte acqua si vota oggi, lo avete sentito, la fiducia alla Camera. Anche la Lega è contraria alla privatizzazione. Il punto della situazione sul territorio con l'esperienza della Toscana. Nuove Acque SPA è una società nata nel 99 per la gestione del servizio idrico integrato. Ne fanno parte 32 comuni della provincia di Arezzo e 5 della provincia di Siena. Si tratta della prima esperienza italiana di applicazione della legge Galli sulla gestione integrata dell'acqua, con il superamento quindi delle gestioni dirette da parte dei singoli comuni. Il capitale azionario di Nuove Acque è diviso tra soci pubblici che partecipano per il 53,84% e soci privati per il 46,16%. Come sta andando? Ce lo racconta l'amministratore unico Jérôme Dusier. Oggi possiamo far parlare alcuni numeri. Il numero di utenti che prima rimanevano senza acqua nel 99 era superiore a 1600, nel 2004 139 e nel 2009 non ci sono più utenti che rimangono più di 10 ore senza acqua. Il dibattito, il privato costa di più, non lo condivido, è assolutamente un falso dibattito, perché la tariffa dell'acqua è normata da un decreto ministeriale ed è programmata dall'autorità di ambito. Facciamo un programma di investimenti, questi investimenti saranno completamente ammortizzati sulla durata della concessione. Cosa significa? Significa che al termine della concessione non c'è un valore residuo degli investimenti e quindi oggi la gente paga e non lascia debito ai suoi figli. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Si è conclusa con la visita alla Grande Muraglia oggi la 3 giorni in Cina del presidente americano Barack Obama, che è atterrato un'ora fa a Seul. Ieri a colloquio con il presidente Hu Jintao, Obama ha tra l'altro sollecitato Pechino a riprendere il dialogo con il Dalai Lama, il leader dei tibetani in esilio, e oggi a Roma per il 5° congresso mondiale parlamentare sul Tibet. Influenza dalla Polonia, l'allarme sul vaccino. Il ministro della sanità polacco ha denunciato pubblicamente la truffa ai danni dei cittadini da parte delle case farmaceutiche. In un discorso del 5 novembre scorso, pubblicato oggi integralmente sul web, dove sta facendo il giro del mondo. I politici europei dovrebbero arrivare ad un accordo sulla vigilanza finanziaria entro fine anno, lo ha detto il presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet, precisando che i mercati finanziari vanno verso la ripresa. Per l'oro, intanto, è sempre record, ci aggiorna in diretta Deborah Rosciani. Sì, buongiorno Anna Rita, questa mattina ne sono stati stabiliti ben 3, questa mattina presto sui mercati asiatici, $1,143 l'oncia, poi a Londra 1,146, infine abbiamo i futures sul mercato di Chicago $1,148, quindi record su record, favoriti dal trend del dollaro che continua ad essere a ribasso. In questo momento il cross, il rapporto di cambio fra la moneta unica europea, il biglietto verde, è a 1,4951. Il prezzo dell'oro peraltro spinge anche i titoli delle materie prime questa mattina in borsa e permette anche una situazione favorevole fra i listini, perché sono tutti in rialzo. Milano guadagna lo 0,7% ed è tutto. Grazie Deborah Rosciani. Noi parliamo adesso di Fiat. Circa 200 operai della Fiat di Termini Merese hanno occupato il municipio e la stanza del sindaco della cittadina. I lavoratori da oggi sono di nuovo in cassa integrazione e temono che l'azienda possa smantellare il sito dove attualmente si produce la Lancia Y. La Fiat intanto non ha accolto la richiesta dei sindacati di ritirare la procedura di trasferimento per 232 lavoratori del centro stile progettazione di Arese. Di fatto dunque si configura la chiusura del centro, a cui seguirà quella di Powertrain, col trasferimento anche del call center e quindi l'abbandono definitivo, temono i sindacati, dell'Alfa Romeo di Arese. Valentina Furlanetto ne ha parlato con Giuseppe Berta, storico dell'industria e docente alla Bocconi. La storia di Varese è la storia di un grande stabilimento automobilistico progettato in un'altra epoca, no? L'epoca era quella in cui le fabbriche erano grandi fabbriche, e ad Varese anche, dobbiamo ricordarlo, Varese è stato uno dei grandi teatri della conflittualità, dell'alta conflittualità operaia e sindacale degli anni 70. Si chiude un'epoca che ha attraversato anche diverse fasi della storia degli italiani. Anche perché l'Alfa ha simboleggiato una delle facce vincenti dell'Italia. Non dimentichiamo che Varese è stato l'impianto da cui sono uscite automobili famose. Una per tutte, vorrei ricordare, la Giulietta, che ha simboleggiato proprio uno dei volti della modernizzazione italiana. Poi la celebre Spider Duetto, no? Il duetto Alfa Romeo è quello che si vede nelle sequenze finali del film Il Laureato, celeberrimo, con Dustin Hoffman, in cui Dustin Hoffman attraversa l'America a bordo di questa scattante Spider, proprio un simbolo anche della modernità italiana, direi. Si chiama Passeggio nella Fantasia, l'appuntamento di oggi al Museo Rossi Moda della Calzatura, organizzato all'interno della Settimana della Cultura d'Impresa. Sentiamo la curatrice del museo, Federica Rossi, al microfono di Adriana Fracchia. Il museo nasce nel 1995, si trova a Stra e ha come sede una villa del 600 costruita dai nobili veneziani. Il criterio utilizzato per l'esposizione è proprio quello della GRIF, cioè di mostrare il contributo della singola casa di moda all'evoluzione del costume. La Rossi Moda ha la caratteristica di lavorare su licenza. Rossi Moda ha iniziato collaborando con Christian Dior intorno agli anni 50, proseguito con Yves Saint Laurent, con Givenchy, con Ungaro, Jenny, Fendi, e ora lavora per 7 marchi del gruppo Louis Vuitton Moët & Hennessy. Come è nata l'idea di coinvolgere anche i bambini nella cultura d'impresa? Ecco. Coinvolgere i bambini ovviamente rientra tra le nostre missioni principali, quella di educare le nuove generazioni alla cultura del lavoro tipica del nostro territorio, e quindi appunto abbiamo pensato di coinvolgerli in un pomeriggio nel fare delle attività che raccontino un po' come nasce una calzatura. Le 13:18, ancora una buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. Nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato dell'ipotesi di elezioni anticipate. Maroni aveva timidamente aperto, Scajola smentito, non ne vedo l'aria, aveva detto. Pochi minuti fa ha parlato Silvio Berlusconi, fugando ogni dubbio. Il premier ha detto: mai pensato ad elezioni anticipate, il nostro impegno è governare 5 anni, il 60% degli italiani è con noi. Abbiamo parlato anche del caso Cosentino, che è stato ascoltato dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera. Contro di me solo calunnie, ha detto. E poi abbiamo parlato della Fiat, proteste a Termini Imerese, Arese verso la chiusura. Adesso, come detto, riflettori sul vertice FAO. Alle 14:30 ci sarà la conferenza conclusiva. Maria Chiara Grandis ripercorre così la 3 giorni di lavori. Sarà il direttore generale della FAO Jacques Diouf a concludere il vertice sulla sicurezza alimentare. In una conferenza stampa traccerà un bilancio dei 3 giorni di lavoro a Roma, per un summit che verrà ricordato per l'assenza dei grandi della terra. Dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama, Nicolas Sarkozy, alla cancelliera tedesca Angela Merkel. È stato Papa Benedetto XVI a condannare l'egoismo dei paesi più ricchi, gli sprechi, l'opulenza, la speculazione. Il n'est pas possible. Per Benedetto XVI non c'è più tempo per ritardi né per compromessi, perché la fame nel mondo è un problema che a causa della crisi economica si aggrava ogni anno di più. C'è da lavorare perché ogni paese si assuma questa obbligazione in modo preciso, con le date per il versamento. Dei leader del G8 presente solo il premier Silvio Berlusconi in qualità di presidente dell'assemblea degli oltre 60 capi di Stato e governo riuniti. Il presidente del Consiglio ha ribadito l'urgenza di passare dalle parole ai fatti. Risultato del vertice è stata l'approvazione dei 5 principi di Roma, un documento che soddisfa solo a metà il direttore generale della FAO Jacques Diouf. We have to get it quantified. Date, how much, when and which condition. Se sulla carta i governi si impegnano a risolvere il problema della malnutrizione il prima possibile, non compaiono però date certe né cifre da destinare ai paesi in via di sviluppo affinché possano arrivare all'indipendenza nella produzione agricola. Investimenti che l'Organizzazione delle Nazioni Unite stima intorno a 44 miliardi di dollari ogni anno, senza i quali ogni 6 secondi un bambino muore di fame, come ha ricordato il segretario Ban Ki-moon. Oltre il vertice, perciò, serve la mobilitazione di tutti. La chiede l'economista della FAO, Luca Alinovi. C'è un modo per poter aumentare i risultati, è quello di aumentare la pressione sui nostri governi. Se noi come cittadini comuni, noi come persone comuni aumentiamo questa pressione, alla fine i governi fanno quello che devono fare. Si può firmare la petizione che è trovabile sul sito web, che è in inglese purtroppo, www.1billionhungry.org. Questo aiuta. Negli ultimi anni qualche obiettivo nella lotta alla fame è stato raggiunto. Dall'Africa, dall'Asia e dall'America Latina arrivano i primi successi. Io do meu governo con aquela che tem sido nostra primeira prioridade. Ne è un esempio il Brasile di Lula, al vertice per portare la sua esperienza. Hanno investito tanto in agricoltura del loro budget nazionale. È impossibile pensare che si chieda gli aiuti stranieri, gli aiuti da fuori del paese, quando il paese stesso beneficiario non crede nell'agricoltura. Lui stesso, quando ha il 70% della popolazione, il 50% della popolazione che dipende dall'agricoltura e investe il 3-4% del proprio prodotto interno lordo, c'è un problema di fondo, quindi diventa difficile chiedere agli Stati Uniti piuttosto che all'Italia, piuttosto che all'Unione Europea a crederci. E se dal summit ancora una volta è emerso che per incrementare la produzione agricola nei paesi in via di sviluppo è necessario sostenere i piccoli agricoltori, la FAO e l'IFAD stanno preparando un documento che li tuteli da qualsiasi forma di sfruttamento. Sarà un codice etico per gli investitori stranieri, chiesto anche dal forum parallelo della società civile e delle organizzazioni non governative. Alla FAO si è voluto ribadire il ruolo delle donne nella produzione agricola e a questo è stato dedicato un incontro tutto al femminile, organizzato dalle First Ladies dei paesi non allineati. Polemiche e curiosità per la presenza della signora Ahmadinejad in una delle sue rarissime apparizioni pubbliche, fotografata tanto quanto il leader libico Gheddafi a spasso per la capitale, impegnato la sera a illustrare i principi del Corano a centinaia di ragazze reclutate sul web. Ora, spenti i riflettori su Roma, il mese prossimo si accenderanno quelli sul vertice ONU a Copenaghen, dal quale si attendono accordi globali sui cambiamenti climatici, che giocano anch'essi un ruolo fondamentale sulla produzione agricola e dunque sulla sicurezza alimentare. Anche questo purtroppo è un vertice su cui si sente una pressione terrificante, anche qua è una cosa grave se dovesse andare a funzionare male. Perché? Perché noi stiamo vivendo da un po' di tempo, da vertice in vertice, come se il vertice fosse il risultato finale di un evento. Il risultato finale di un evento è che non esista più un singolo affamato nel mondo per quello che riguarda la FAO. Il risultato finale dell'evento di Copenaghen, anche degli effetti di mitigazione e di controllo degli effetti del cambiamento climatico, devono non avere più impatto sulla nostra vita. Se questo non accade, i summit non hanno valore, quindi per me i prossimi passi sono garantire che ciò di cui ci siamo impegnati nel summit a Roma per quanto riguarda il cibo, nel summit di Copenaghen, speriamo bene, per quanto riguarda i cambiamenti climatici, vengano messi in piedi. Maria Chiara Grandis, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ci spostiamo a Perugia per il processo d'appello a Rudy Ghedè. È tornato sul banco degli imputati davanti alla Corte d'Assise di Perugia. Rudy Ghedè era stato condannato in primo grado a 30 anni di reclusione con il rito abbreviato per l'omicidio di Meredith Kercher. Stamattina in aula ha ripetuto in oltre 20 minuti la sua versione dei fatti. Nella casa della studentessa inglese lui c'era, ma si sarebbe accorto dal bagno di quanto stava accadendo, accorrendo subito nella stanza della giovane. Il racconto di Ghedè. Le tenevo la mano, le chiedevo cosa è successo, ma ciò a cui stavo assistendo era una cosa veramente tragica. Io sono entrato in uno stato di shock. In aula stamattina, nel collegio difensivo del giovane ivoriano, anche lo psichiatra Alessandro Meluzzi e il criminologo Vincenzo Mastronardi hanno parlato di sindrome traumatica da stress che avrebbe causato la fuga dal luogo del delitto fino in Germania. Alessandro Meluzzi e poi l'avvocato Walter Biscotti. Una sindrome che si realizza nelle guerre, nelle condizioni di catastrofe, nelle situazioni di violenza estrema. Noi siamo fiduciosi di essere in grado di convincere la Corte che Rudy non ha ucciso Meredith. Daniele Morini, GR24, Il Sole 24 Ore, Perugia. La pagina sportiva con il calcio, stasera l'ultima amichevole del 2009 della Nazionale. Sul calendario nella sua casa a Viareggio, Marcello Lippi ha una sola data cerchiata in rosso, 1 giugno 2010, quando dovrà rendere note le convocazioni per i mondiali. Nei 194 giorni ancora a disposizione, il CT dovrà scegliere a chi assegnare le ultime 6 maglie libere per il Sudafrica. Le due amichevoli a disposizione, stasera con la Svezia ed in marzo contro una nazionale africana, dovrebbero aiutarlo a sciogliere le riserve. Il resto lo dirà il campionato. Sugli altri argomenti, il silenzio, in questi casi, per il CT è d'oro. Non ho nessuna voglia ovviamente di parlare né di Amauri, né di Cassano, né di Lippi che torna alla Juventus, e tutte queste cavolate qua, non mi interessa parlarne. A Cesena, in una nazionale che cambia per 9-11 rispetto a quella vista contro l'Olanda, è un esame vero per 4. In difesa il napoletano Maggio si gioca un posto da vice Zambrotta. A centrocampo Candreva cerca il bis del convincente esordio di Pescara, mentre Marchionni prova a convincere Lippi di essere l'alternativa giusta a Camoranesi. In attacco Pazzini dovrà rispondere non più solo a parole al fantasma di Amaurì. Massimo Di Cenza, GR24, Il Sole 24 Ore. È stato nelle ultime due stagioni un enorme successo teatrale. Sarà una bella società di Shel Shapiro ed Edmondo Berselli. Ora è un DVD. Sentiamo Shel Shapiro al microfono di Marta Cagnola. Volevamo evitare assolutamente la nostalgia. L'idea era proprio di fare uno spettacolo che avesse uno sguardo critico su chi siamo stati e chi siamo diventati, insomma, con questo togliere il divertimento, l'energia, gli errori e le passioni e le cose giuste che abbiamo fatto in quel periodo, insomma. E si capisce che non è falso, che non è un'operazione commerciale, ecco, quello sì, forse diventa una delle chiavi vincenti, insomma. Allora, visto che lui è francese, lo facciamo in francese. E le tue un pupe che fa no, no, no, no, no. E questi stessi tre codi, dopo anni, serviranno a cantare anche la madre di tutte le canzoni. Un marinero, un marinero, un marinero. Basta, eh? Adesso per 2 o 3 anni mi piacerebbe però lasciarlo lì in modo che, come il vino, che diventa più buono con il passaggio degli anni. Edmondo ed io stiamo lavorando già su un'idea per uno spettacolo nuovo che dovrebbe debuttare tipo luglio dell'anno prossimo. Il mondo è pieno di novità. Prima di chiudere vi ricordo la notizia con la quale abbiamo aperto la seconda parte di questa edizione. Berlusconi ha rotto il silenzio, mai pensato ad elezioni anticipate, ha detto: il nostro impegno è governare 5 anni. Vi lascio a Buongiorno America, grazie regia Carmelo Lauricella, il GR torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.